capirò le tue scelte. A volte non riuscirò a farti cambiare idea. A volte dovrò lasciarti sbagliare, mentre a volte dovrò anche lasciarti cadere. Ti sei fatta male, eh? A volte non potrò seguire i tuoi sogni. A volte non saremo neanche d'accordo. È normale. Ma non ci sarà mai e poi mai una sola volta in cui non sarò della tua parte. Mai. Papà sarà sempre con te, dalla tua parte, nella vittoria, ma anche nella sconfitta. Perché ogni cosa che fai tu è un po' come se la facessi anch'io, perché tu sei una parte di me, la migliore. Strada migliore, segui il cuore che te la insegnerà. Vorrei sentire il rumore tra due battiti di cuore, perché il re...